L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Altro Pianeta, quando siamo ormai davvero a ridosso dell'Expo di Milano e allora cominciamo a guardarci dentro. In questa puntata infatti ci occuperemo del Biodiversity Park, diciamolo all'italiana, area tematica dell'Expo di Milano dedicata appunto alla biodiversità, nella quale si affronteranno le tematiche fondamentali di questa esposizione universale Feeding the Planet, Energy for Life, quindi nutrire il pianeta, energia per la vita. Gli ospiti di questa puntata sono Emilio Genovesi, benvenuto. Grazie. Ha definito il concept del parco della biodiversità, è CEO, possiamo dire all'italiana, amministratore delegato? Amministratore delegato, sì. Sì, ma l'azienda è in un network internazionale, gli americani preferiscono CEO. Esattamente, di Material Connection Italia, centro internazionale di ricerca e consulenza sui materiali innovativi e sostenibili, e Stefano Bocchi, benvenuto anche a lei. Grazie mille, buongiorno a tutti. Docente della Facoltà di Agraria della Università di Milano, l'università che ha fornito il supporto scientifico, no, alla realizzazione di questo parco. Diciamo che siamo curatori scientifici del parco. Allora, io però inizio da Emilio Genovesi perché ci deve descrivere innanzitutto cosa ci sarà in questo parco, poi vediamo cosa ci mettiamo dentro. Esatto. Allora, aggiungo a quello che lei ha correttamente detto, che è una delle aree tematiche. Come voi sapete, Expo ha 5 aree dedicate a diversi temi che vanno dal padiglione zero, dove si presenta un po' tutta la storia della nutrizione, a un'area per i bambini in Children Park, a una sul futuro, a una sull'arte che è appena inaugurato in Triennale. Noi siamo la quinta e siamo quella dedicata poi, diciamo, anche al tema centrale, quello della biodiversità. Siamo l'area in cui c'è la più alta concentrazione di differenti specie di piante che un visitatore può vedere. Mi tocca aggiungere che l'area è un'area tematica di Expo, quindi gestita di Expo, ma con la partnership di Bologna, certo, Fiere. Fondamentale, perché c'è un'esperienza. La Bologna Fiere è stata fondamentale nella riuscita del progetto, anche perché ha portato la robusta esperienza sviluppata con la Fiera Sana, che fanno Bologna Fiere fa da parecchi anni, e che è la fiera di tutta la produzione biologica. Infatti c'è un'area anche dedicata, e no, infatti il parco, se dobbiamo dirlo con tutta la complessità, è il Biodiversity Park, un parco della biodiversità e anche del biologico. Che cosa vedremo in questo progetto, che è articolato su diverse parti? Innanzitutto un avviso per il visitatore: non siamo un padiglione come gli altri con una porta d'ingresso e una porta di uscita. Ma siamo, e che è anche un vantaggio quando devi mostrare delle cose, perché organizza un percorso e nel momento in cui sei entrata è difficile che esci. Noi siamo invece un'area che è distribuita su 8500 metri quadrati, ma che è organizzata a isole e buona parte di quest'area non è coperta. Quindi i visitatori possono percorrerci per tutta la lunghezza di 400 metri e quindi vedere tutto quello che noi esponiamo, ma anche attraversarci, per esempio, e fermarsi solo su una parte del nostro progetto. Per questo abbiamo dovuto organizzare un progetto che sia comprensibile e gustabile anche solo in alcune sue parti. Questo è, diciamo, stato un po' un obbligo in una situazione in cui si prevede che il visitatore medio dedichi non più di 10 minuti alla visita di un progetto. E quindi, come organizzata? C'è una parte che è la parte, diciamo, non coperta, l'aperto, che presenta l'insieme della biodiversità italiana. Anzi, quindi deve dare un po', deve far capire quanto l'Italia è diversa. Deve far capire quanto l'Italia su questo terreno ha un patrimonio non uguali al mondo, cioè quanto noi, grazie anche alla storia, diciamo, della nostra agricoltura, che è sempre stata una storia un po' come anche nell'impresa, del successo del lavoro dei piccoli e medi imprenditori. Questa storia ha mantenuto quindi una diversità articolata delle produzioni che non ha quasi eguali al mondo e che si integra anche, grazie poi al nostro paesaggio naturale, con una diversità assoluta dei paesaggi non coltivati. Quindi in questa parte organizzata per aree, noi raccontiamo questo che può essere chiamato un grand tour d'Italie, ma un grand tour appunto che punta a mostrare le piante, la parte vegetale coltivata dell'Italia e non tanto i monumenti. Si parte da una prima isola dedicata al paesaggio alpino, poi ce n'è una seconda sul paesaggio appenninico, la pianura padana, gli altipiani intermedi e i tavolieri, e si arriva alle isole. In ognuna di questa area, con un lavoro che solo grazie, devo dire, ai vivaisti che Fiera Bologna ci ha messo a disposizione, e siamo riusciti con infatti le avrei chiesto se erano aree, esatto, se erano reali, sono assolutamente reali. In queste aree ci sono 350 specie di piante diverse e quindi il visitatore passando potrà passare dagli abeti, i rododendri e le orchidee che può vedere nelle Alpi, ai carpini dell'Appennino o alla pianura padana, dove saranno coltivati il grano, il mais, il sorgo, poi Bocchi meglio di me può spiegare queste cose, che seminati cresceranno durante i sei mesi, fino ad arrivare alla parte dedicata agli olivi pugliesi. Ha toccato un tasto dolente con gli olivi pugliesi, l'ha fatta apposta. Ma ci saranno olivi pluricentenari però che saranno portati. E quindi questo, diciamo, sarà il primo pezzo di questo viaggio, in cui questo viaggio termina con una parte dedicata a quello che ormai è un tema molto importante quando parliamo ormai anche di nutrizione, che è l'agricoltura della metropoli, quindi con una parte dedicata agli orti urbani. E quindi in questa parte invece sarà mostrata la diversità dei tipi di coltivazione che ormai si sviluppano nelle nostre metropoli, quindi vedremo di più magari piante che si arrampicano su pareti o appezzamenti coltivati con ordine, eccetera. Senta, facciamo parlare un attimo il professor Bocchi, è su questa parte che voi avete lavorato più consistentemente? Ma direi che la parte che ci ha impegnato forse di più invece è la mostra della biodiversità, che è diciamo un pezzo di tutto il parco. Cioè il parco si articola su diverse aree, una aperta, diciamo, anzi due aperte, quella che diceva prima Genovesi, il Grand Tour d'Italie, e poi la seconda parte aperta, appunto a cielo aperto, che è quella degli orti e dell'agricoltura urbana. Poi ci sono invece tre aree coperte, la prima, appunto la mostra della biodiversità, e questo è stato, direi, un capitolo importante per noi, insomma, diciamo, per i contenuti non solo scientifici, ma per quanto volevamo comunicare appunto al visitatore che potrà... Che? Dunque, cos'è che volevate che fosse evidente, appunto, diciamo? Infatti, cioè, più che diciamo contenuti strettamente scientifici, abbiamo pensato di raccontare delle storie della biodiversità, toccando aspetti storici, geografici, anche quelli di alimentazione, quindi aspetti della nutrizione e dell'alimentazione quotidiana. Quindi abbiamo raccontato, diciamo così, 8 storie, sono 8 tappe che all'interno di questa mostra il visitatore potrà in qualche modo così conoscere attraverso oggetti o piante o semi o allestimenti, infografiche che in pochi minuti potranno appunto raccontare questa cosa, cioè a partire dalla nascita dell'agricoltura fino a quello che sono stati i grandi viaggi che hanno rimescolato un po' la biodiversità, in alcuni casi hanno aumentato, in altri hanno diminuito la biodiversità, e in questo modo riusciamo a parlare di agrobiodiversità. Quindi a partire dal concetto di biodiversità, che è qualcosa di molto molto ampio, e quindi anche complesso, e quindi abbiamo cercato di non esagerare sulla complessità, ma neanche non volevamo banalizzare il concetto. Le chiedo un momento di pausa, ci ritroviamo tra pochissimo e parliamo proprio di agrobiodiversità. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale stiamo parlando del Parco della Biodiversità che aprirà ormai tra pochissimo all'Expo di Milano. E stavamo dicendo con il professor Stefano Bocchi della Università di Milano della agrobiodiversità. Professore, che cos'è l'agrobiodiversità? Allora, l'agrobiodiversità è un insieme di piante, animali, però bisogna dire piante coltivate e animali allevati, quindi è una parte del tutto, una parte della biodiversità. No, tanto per fare un esempio, passando dalla raccolta e caccia, l'uomo, diciamo, prima dell'agricoltura utilizzava circa 1500-2000 piante. Con l'agricoltura si sceglie e si scelgono alcune piante, quelle forse più convenienti, insomma, per il nuovo modo di vivere stanziale, e si utilizzano 150 piante che poi piano piano diventano meno, alcune decine, e pensiamo che oggi 15-20 colture, ormai possiamo dire, hanno un'importanza globale, e solo con tre colture, cioè riso, frumento e mais, noi a scala globale alimentiamo o diciamo ricaviamo il 50% dell'energia alimentare che appunto ci... Quindi siamo andati restringendo i nostri gusti, ampliandoli, esatto, nonostante, cioè, la globalizzazione del mercato e di tutto. Sì, abbiamo più opportunità sicuramente, ma abbiamo ristretto il numero delle colture, e sicuramente c'è una sorta di piramide rovesciata, cioè da una base che era molto ampia, adesso appunto sono pochi i cereali, quei tre che dicevo, e poche altre colture proteiche, diciamo di fonte proteica o vitaminica, che su scala mondiale appunto compongono i nostri piatti. Quindi la mostra all'interno del parco vorrà evidenziare anche questo aspetto. Sì, ecco. E soprattutto che è stata una questione degli ultimi 40-50 anni, ecco, ci sono delle fasi storiche che sottolineano questo trend, quindi non è sempre stato così, e soprattutto in alcune aree del mondo non è stato e non è così, per cui ecco, vorremmo sottolineare che non è tutto dato, non è tutto scontato, e in vista di innovazioni future, ecco, possiamo utilizzare queste nostre conoscenze, questo nostro passato per migliorare, insomma, diciamo così, i programmi, le azioni anche individuali e anche quelle dei governi, ovviamente, quindi è una riflessione generale. Certo. Allora, Emilio Genovesi, che ricordo ha definito appunto l'idea del Parco della Biodiversità, cos'altro abbiamo detto dell'ambiente esterno, che sarà particolarmente complicato gestire? Immagino, appunto, lei ricordava i vivaisti di Bologna Fiere che saranno alle prese con queste piante. Quello che è interessante è che l'ambiente esterno sarà tutto, anche questo grazie a una partnership, irrigato goccia a goccia, quindi con un'irrigazione goccia a goccia che permette un forte risparmio di acqua, e quindi tra l'altro è un'indicazione anche questa per il futuro, insomma. Senz'altro. Come voi sapete, senz'altro, l'acqua è un bene indispensabile. Allora, l'ambiente esterno, la mostra e... La mostra esterna, la mostra che, come diceva Bocchi, è articolata su storie e si chiude con una domanda, e quindi... perché noi non vogliamo definire un futuro rigido, sapere come sarà il futuro della biodiversità. Sappiamo che molto probabilmente si svilupperà una compresenza dalla ripresa forte del, come sta accadendo, anche delle coltivazioni biologiche, eccetera, a un uso non dissennato ma intelligente delle tecnologie. e alla mostra segue un secondo padiglione, che è il padiglione invece nel quale tutti i protagonisti del biologico italiano possono essere presenti, e quindi il visitatore avrà la possibilità di oltre che vedere, in questo caso anche assaggiare, perché stiamo parlando di alimentazione. Forse per questo motivo la gente si fermerà un po' più dei 10 minuti che diceva prima. Esatto, i prodotti del biologico italiano, sia i prodotti direttamente prodotti dalla terra, sia i prodotti di trasformazione, perché ci sono aziende che poi lavorano farine prodotte in maniera biologica, e ci saranno anche la produzione di oli, la produzione di vini, eccetera, eccetera. Quindi questo sarà è il terzo pilastro su cui ho organizzato il parco, prevedere un incontro tra il visitatore e alla fine anche i risultati di quell'agrobiodiversità che prima ha potuto attraversare e vedere, o di cui, vedendo la mostra, ha imparato il valore, storia, certo. Il valore, la storia. Questo tra l'altro è un aspetto importante, perché noi abbiamo in Expo tanti padiglioni che affrontano il tema della biodiversità, ma tutti mettendone in scena una parte. Noi con la mostra cerchiamo invece di, anche se minimamente, in pochi minuti, dare al visitatore un'idea di che cos'è, di quale importanza ha storicamente nella nostra vita questo tema. Vedo che è anche previsto uno spazio di dibattito, teatro al centro della terra, così intitolato, che dovrebbe ospitare varie manifestazioni. Sì, questo sarà un altro padiglione minore che sarà in fronte al padiglione della mostra, separato da un frutteto, perché manteniamo questo carattere di presenza delle piante. E qui organizzeremo dall'inaugurazione a tutta una serie di dibattiti che saranno sviluppati in collaborazione con la regia di un comitato scientifico in cui sono presenti, oltre che l'Università di Agraria di Milano, anche Padova e Bologna, ma soprattutto è presente Federbio in una forte relazione anche con il FAI, che, come voi sapete, si occupa molto di biodiversità, e il padiglione è realizzato anche con il contributo dei due ministeri, dell'ambiente e dell'agricoltura, che saranno presenti anche loro nei dibattiti. Per esempio, è prevista una presentazione di tutti i parchi italiani, che avranno a disposizione lungo i 6 mesi, ciascuno un giorno, una possibilità di illustrare le proprie bellezze ai visitatori. Senta, le devo fare però questa domanda non cattiva, però ce la facciamo, perché ho visto i dati che erano sul sito oggi, erano di marzo, quindi comunque sono già superati, però si parlava della realizzazione di 5 degli 8 lotti, quindi quei 3 ci arrivano in tempo per l'apertura, diciamo, perché questo è un padiglione che sarà bellissimo da visitare, però se non è completo è anche quello che sembra un dente che manca. Da questo punto di vista siamo abbastanza sicuri che noi per l'apertura ci saremo, non si preoccupi. Grazie al vantaggio anche che questi padiglioni sono costruiti con una tecnica più feristica che architettonica, e quindi hanno meno complessità nella loro costruzione. Quello che è assolutamente incredibile è la capacità in cui in poco tempo i nostri tecnici hanno saputo piantare le 350 specie di piante. Ma il professor Bocchi adesso hanno il mio applauso assolutamente, seguendo poi le invenzioni del professor Bocchi, che le cambiava di giorno in giorno. Ecco, perché le cambiava di giorno in giorno? Per farle crescere prima? I professori sono fatti così. No, le doveva fare attecchire bene, no? Professore, come ce la fanno ste piante? No, la cosa bella che vorrei sottolineare è che appunto non sono solo piante, ma si presentano dei paesaggi, no? Quindi degli allestimenti, un insieme complesso e anche bello del paesaggio. Tra l'altro l'altra settimana il MIPAF ha proprio iniziato un'attività di osservazione dei paesaggi italiani, 120 paesaggi italiani saranno osservati, tenuti sotto l'osservazione per capire come la biodiversità sta cambiando e quindi poter intervenire. Noi appunto presentiamo i paesaggi, quindi l'idea era quella di presentare non delle specie, quindi un elenco forse un po' arido di specie, ma proprio una composizione che nei secoli, potremmo dire, piano piano l'umanità è riuscita a appunto a fare, quindi uno specchio anche delle attività quotidiane delle passate generazioni, ma anche della nostra attenzione su quello che è la qualità della vita nei diversi territori. Quindi lei si è trovato a fare un po' anche l'arredatore in questo contesto, sì. Sia pur sui generis, perché parliamo, sì, di piante, però sì, è stato anche difficile portare alcune varietà nel clima di Milano rispetto a quello di cui godono, non so, in Sardegna? No, beh, per fortuna stiamo parlando tra maggio e ottobre, no? Quindi in questi nostri climi temperati abbiamo una stagione appunto da maggio a ottobre dove sì, temiamo alcuni eventi particolari, alcune grandinate, quella non le nascondo, non nascondo il mio timore, però devo dire che anche lì abbiamo cercato di ridurre al minimo il rischio in termini di avere delle riserve, diciamo così, per cui se succede qualcosa siamo in grado di sostituire nel giro di poco, insomma, quindi poter assicurare per i sei mesi una buona qualità degli allestimenti. Immagino che la sostituzione Emilio Genovese arriverà da Bologna Fiere, come diceva, no? Si hanno portato loro le piante, poi in eventuale emergenza dovranno intervenire. Abbiamo un backstage che abbiamo preparato, perché ovviamente una mostra fatta di piante è una cosa diversa che una mostra fatta di dipinti, per esempio. Certo. E quindi soprattutto per le specie che sappiamo che sono più eventualmente fragili in caso di qualche intervento atmosferico non positivo, abbiamo la possibilità immediatamente di sostituirle e replicarle in maniera tale che per i sei mesi il visitatore di maggio veda lo stesso Grand Tour d'Italie che vede il visitatore di settembre, tranne il fatto che dove ci saranno dei fiori forse ci saranno dei frutti e magari e questo però è il bello, il colore delle foglie, però questo è il bello, devo dire. Senta, invece le sue preoccupazioni quali sono? Perché i tempi ce la facciamo, mi diceva il professore, diceva spero che non venga il maltempo, lei cosa spera? Ma io credo le mie preoccupazioni vere sono che siccome che il parco non sia travolto dai visitatori, nel senso che comunque è un progetto fragile, perché stiamo parlando di piante. Noi vogliamo, sarà custodito, ma vogliamo che i visitatori lo vivano, quindi lo attraversano anche, eccetera. Tutto questo nel momento in cui ci si muove su dimensioni di numeri di un certo tipo è assolutamente più facile da gestire. Quando si parla di 24 milioni di persone che visiteranno Expo, il rischio vero per progetti come questo, che hanno la loro fragilità, è di riuscire a reggere l'impatto. Ecco, questa è l'unica cosa che io temo, ma confido nell'organizzazione di Expo. Dunque, io ho terminato il tempo che era a nostra disposizione, quindi ringrazio gli ospiti, Emilio Genovesi, ricordo, e Stefano Bocchi. Grazie. E vi do appuntamento all'Expo, a questo punto mancano pochi giorni, ci troviamo lì. D'accordo. Grazie. Vi aspettiamo tra le piante.